darei l'inizio a questa nostra serata con due parole di introduzione. Innanzitutto il benvenuto a voi che siete qui e partecipate alla nostra iniziativa, un'iniziativa voluta dalla Biblioteca Provinciale in collaborazione con l'Intendenza Scolastica, e quindi pensata anche come formazione professionale e come aggiornamento per gli insegnanti. Dall'altra, chiaramente saluto e ringrazio molto i nostri ospiti che sono il coautore Marco Pugliese e la nostra moderatrice d'eccezione questa sera che è la giornalista Paola Besega, e la conoscete, è un volto noto della televisione, ci aiuterà a conoscere meglio il libro che Marco Pugliese ha scritto insieme a Cino Serrao. Il titolo lo vedete anche alle mie spalle: L'industria italiana del XX e XXI secolo, visionari e giganti. Il tema dell'industria è un tema anche molto attuale ultimamente anche a livello locale, quindi penso che sarà interessante entrare ed esplorare questo libro e soprattutto questo argomento, anche declinandolo appunto forse nella realtà locale, ma sicuramente anche con una curiosità rispetto alla differenza che c'è tra oggi e ieri, ecco, e cosa si può recuperare, cosa c'è di buono oggi, ma cosa si può recuperare rispetto alle esperienze passate. La Biblioteca Provinciale ha un legame con l'industria per tanti motivi, non ultimo vorrei ricordare il fatto che tanti anni fa, partendo da una raccolta fotografica, abbiamo ricostruito le testimonianze di operai, tecnici, dirigenti delle acciaierie nel corso di numerosi decenni, e questo è stato un modo veramente per riscoprire e scoprire un aspetto della storia del nostro territorio inusuale o comunque inesplorato fino a quel momento per certi suoi aspetti. Quindi c'è un legame, un interesse particolare, perché la storia del territorio va anche, attraversa anche chiaramente la zona industriale, anzi è un aspetto fondante per certi versi e anche da un punto di vista antropologico, quindi urbanistico, possiamo mettere dentro tante accezioni. Non mi dilungo, racconto solo un attimo quello che fa la biblioteca. Chi non avesse la possibilità di seguire fisicamente e in presenza queste iniziative le può riascoltare dal nostro sito, perché abbiamo un podcast di 600 e passa iniziative registrate in questi ultimi 22 anni. Allora, poi il prossimo appuntamento sarà il primo di ottobre, quindi martedì prossimo alle 17:30 avremo una nuova conferenza dedicata al Castel Tirolo, ne abbiamo fatte due tra gennaio e marzo di quest'anno. Questa volta sarà Tania Cassetti, Mirko Freiner, Sonia Steger insieme a Leo Andergassen, che ci racconteranno le smart histories del Castel Tirolo, e sarà molto curioso da scoprire questo appuntamento, vi invitiamo a partecipare. Mercoledì invece 2 ottobre alle 17, ecco un pochino prima, ci sarà un'altra iniziativa, la fotografia dal pittorialismo ad oggi. Saranno con noi Francesca Witzmann, che conoscete, Pietro Marangoni, e ci sarà anche Antonietta Orlandini. Infine la prossima settimana, il martedì, ecco, diciamo che il nostro giorno canonico sarà sempre il martedì per quest'anno, alle ore 17:30, nuovo appuntamento con la biblioteca, Pierluigi Siena, un'eredità culturale. Presenteremo il libro a 20 anni dalla morte di Piero Siena. Il libro è stato scritto e curato da Sonia Beretta con Carlo Bertorelle, e sarà presente anche Andreas Hapkemeyer. Ecco, questi sono gli appuntamenti dei prossimi 7 giorni. Tenetevi pronti e pronte. E vi ringrazio, vi lascio la parola e vi auguro a tutti una buona e piacevole serata, sperando di rivedervi in biblioteca. Grazie. Innanzitutto io ringrazio la direttrice Valeria Trevisan per l'invito, per essere qui al Trevilab, alla Biblioteca Provinciale Claudia Augusta, per questo appuntamento. Ringrazio anche l'autore Marco Pugliese, perché con lui parleremo di questo libro che ha scritto insieme a Cino Serrao. Dunque ci sarà da parlare, come abbiamo sentito anche da Valeria sia di passato, di presente, ma anche di futuro, no? Dell'economia e dell'industria della nostra bella Italia. E, appunto, ti ringrazio per questa possibilità, perché andremo a trattare diversi temi, parleremo di come è cambiata l'industria nel nostro paese, cosa ci ha lasciato e cosa ci può lasciare anche in eredità. Intanto io vi ringrazio, perché io sono di Bolzano, ovviamente ho scritto un libro insieme a Cino, che è un ex manager della Montedison e che ha lavorato anche per Gardini per un sacco di tempo, quindi insomma una persona di un certo livello e vi porta anche i saluti, non è potuto essere a Bolzano in questa circostanza. Sono contento di presentarlo anche nella mia città, perché segue, l'ho pensato 7-8 volte in giro per l'Italia, quindi oggi è bello anche essere a Bolzano ed è bello anche, ringrazio anche Valeria, perché insomma noi collaboriamo da tanti anni, quindi sono contento di essere a presentarlo qui, molto contento. Il libro nasce in realtà da un'idea, che da un post mio di LinkedIn, dove mettevo dei numeri sull'industria italiana nel mondo, e Cino, che era attento ai numeri, mi ha contattato e mi ha proposto di scrivere un libro che andasse a spiegare come effettivamente l'Italia fosse una nazione trainante nel settore industriale mondiale. Cioè, noi pensiamo sempre all'Italia come un paese più vicino magari al mondo culturale, però attenzione, perché poi io spiegherò che è cultura anche l'industria, al mondo culturale o del turismo, quello che è, ma molti, per esempio, ho fatto anche i miei studenti all'università, quando gli ho chiesto questo chi lo ha ideato, quasi tutti mi hanno detto un americano. In realtà questo è un progetto Olivetti, e il touchscreen l'ha creato Faggin, il microchip Faggin è un progetto totalmente italiano, sia nel design, sia tutti i negozi Apple che vedete sono scoppiazzati ai negozi Olivetti anni 50. Quindi, parentesi, sulla Luna siamo andati grazie a un algoritmo Olivetti. Quindi, fatta questa premessa, che è giusto che l'italiano medio conosca, abbiamo inserito anche una figura come quella di Enrico Mattei, che non dovrebbe essere solo una scuola dedicata, ma delle piazze, proprio con delle gigantografie nelle piazze, perché se avete le ferie in agosto e avete ancora un tenore di vita discreto, lo dovete a Enrico Mattei e basta. Dico e infatti basta. Io vorrei iniziare questo nostro dialogo proprio con la frase che avete inserito in questo libro, che vi vado a leggere, scritta da e detta da Enrico Mattei in un discorso del 1961. Io proprio vorrei che gli uomini responsabili della cultura e dell'insegnamento ricordassero che noi italiani dobbiamo toglierci di dosso questo complesso di inferiorità che ci hanno insegnato, ovvero che gli italiani sono bravi letterati, bravi poeti, bravi cantanti, bravi suonatori di chitarra, brava gente, ma non hanno le capacità della grande organizzazione industriale. Ricordatevi, amici di altri paesi, sono le cose che hanno fatto credere a noi e che ora insegnano anche a voi. Tutto ciò è falso e noi ne siamo un esempio. Dovete avere fiducia in voi stessi, nelle vostre possibilità, nel vostro domani. Dovete formarvelo da soli, questo vostro domani. Ma per fare questo è necessario studiare, imparare, conoscere i problemi. Enrico Mattei nel discorso del 1961. Quindi io partirei proprio da questo discorso di Enrico Mattei per poi andare a discutere e a parlare di questo libro, perché già da queste poche frasi, da queste poche parole, si chiede anche alla gente di avere più consapevolezza delle proprie capacità. Sì, questo era proprio lo spunto ed è quello che di fatto si è portato sia nelle scuole sia nelle università con un progetto proprio specifico, non solo legato a questo libro ma anche a un progetto nazionale che abbiamo creato, lo presenteremo anche venerdì durante una trasmissione di La 7, che è proprio l'idea proprio di Mattei traslata nel mondo dell'imprenditoria e dell'accademia insieme. Abbiamo messo insieme un gruppo di persone che partono da questi principi e vogliono rivoluzionare, cioè rimettere al centro quella che è la cultura industriale italiana, però in un modo propositivo, cioè far capire anche alle aziende. Io sono andato in 9 aziende, molte volte ho dovuto rifiutare perché non avevo tempo, non tanto solo per spiegare il libro, ma per spiegare a queste aziende quello che effettivamente Mattei e anche Adriano Olivetti hanno fatto in quelle aziende, cioè l'organizzazione delle aziende italiane è stata copiata all'estero ed è tuttora copiata. Per esempio il Giappone, in Toyota copiavano la Olivetti, la fabbrica orizzontale. L'Iveco, per esempio, tuttora, se voi avete notato, magari qualche operaio dell'Iveco va ancora in giro con la maglia dell'Iveco perché si sente parte di qualcosa. Mio nonno andava in giro con la maglia delle Acciaierie perché comunque sotto sotto, anche se criticava il padrone, qualcosa ci aveva in comune, cioè comunque c'era la colonia estiva. Ecco. Enrico Mattei era un industriale, ma prima di tutto era una persona che voleva il benessere degli italiani. E su questo non è una frase fatta, è morto, probabilmente ammazzato, ha lasciato solamente alla vedova una pensione che l'ENI le ha dato più un paio di immobili, punto. Quindi era un top manager mondiale che ha messo in crisi le aziende petrolifere di mezzo mondo, ma che ha creato delle scuole di formazione per gli ingegneri di mezzo mondo e soprattutto ha creato la cooperazione internazionale, che non è nata chissà dove, è nata con l'ENI e con gli accordi ENI-Paesi Terzi. Esempio, quando intanto Mattei invitava le persone, come lo scià di Persia, piuttosto che altre, le considerava a pari, cosa che gli inglesi e gli americani, più che altro gli inglesi e i francesi non facevano. E poi dava una contribuzione diversa, cioè i contratti del 50-50 degli inglesi erano 50% rimaneva sul territorio, 50% di guadagno lo prendevano gli inglesi, ma le aziende di raffineria erano tutte inglesi, quindi in realtà alla popolazione locale rimaneva il 3% e tutto il know-how tecnologico era importato, quindi non rimaneva nulla al paese, se non un 2-3% che andava nelle tasche dei vari Reucci. Invece il sistema Mattei era 70% rimane al paese, know-how tecnologico viene dato dall'Italia, gestito dal paese, con però il personale reclutato nel paese, assunto nel paese, con contratti, modalità ENI come quelli italiani. Quindi la persona nata in un paese, in Iran per esempio, aveva lo stesso identico contratto che avevano a Milano, a Metanopoli. Doppia cosa, le persone nate lì venivano poi trasferite in Italia per un periodo e gli veniva fatta una scuola di formazione, sia mineraria, sia di cultura, eccetera. E poi venivano rimandati lì. Quindi queste persone poi lì facevano crescere il paese. È successo in Iran, è successo nel Sahel, è successo in tanti stati. Quindi l'ENI nasce con questo spirito. Perché? Perché Mattei era fondamentalmente anche un cattolico, quindi credeva molto, era un partigiano ma cattolico, credeva molto nella carità anche verso gli altri, e soprattutto quando Enrico Fermi lo chiamò nel 1956 e gli disse: guarda che dobbiamo fare qualcosa col nucleare perché io in mano ho l'energia nucleare civile, altra invenzione non americana, lui disse: sì, però il mio primo obiettivo è che gli italiani in agosto, comunque almeno in agosto, vadano in ferie, perché noi eravamo uno dei pochi paesi a non avere le ferie scaglionate. Come voi sapete, agosto, fin dai tempi di Ottaviano Augusto, è un mese in cui si festeggia, no? Perché Ottaviano vinse la battaglia contro Cleopatra e dà le ferie auguste. Quindi da questo spunto hanno chiuso le fabbriche 3 settimane, proprio nel periodo di Ferragosto. Perché? Ecco, mi collego. Perché l'ENI al suo interno aveva dei letterati anche che facevano la pubblicità, non come molte zucche vuote di oggi del marketing. Persone letterate, di una certa cultura, anche solamente il simbolo dell'ENI è stato creato da una persona di una certa levatura. Oppure la Olivetti, che ai suoi operai metteva i quadri di Guttuso e diceva: questo è il bello, questo è quello che siamo, quando entrate qua sappiate che noi siamo anche questa roba qua, quindi se siete stanchi durante la giornata sappiate che potete venire qua a rilassarvi e vi diamo pure i libri da leggere. Ecco, tutto questo negli anni 50. Io ho intervistato circa 40 persone che hanno lavorato all'ENI e 30 alla Olivetti. Non c'è nessuno che non abbia pianto. Questo per farvi capire l'andazzo di quel periodo nel nostro paese e quanto invece abbiamo perso nei 40 anni dopo. Quindi questo libro proprio vuole arrivare ai giovani. Infatti sono stato in varie scuole dove i ragazzi molto giovani non sapevano, loro hanno in testa Musk, hanno in testa Jobs, però non hanno in testa quello che effettivamente è il loro paese, cioè che siamo la terza, quarta potenza industriale, spaziale, che siamo la settima potenza industriale mondiale, loro non ce l'hanno nella testa. Questo, guardate, che è pericoloso, perché significa che questi ragazzi tendono poi ad andare all'estero convinti da dover solo imparare e il loro paese non gli dà nulla di know-how. Enrico Mattei, che non aveva fatto l'università, ma che nasceva proprio da fabbrica il suo ragionamento, quando si trovò in Cina, insieme a dei tecnici stranieri, c'era qualche inglese, qualche russo, ci fu una grande nevicata, era Natale, si misero tutti a cantare, in quell'occasione, che infatti nasce da lì questo discorso, gli altri dissero, adesso è il turno degli italiani, no? Cantare, saranno i più bravi di tutti. E Mattei si arrabbiò e disse a questo inglese, scusa, perché dobbiamo essere noi più bravi? Non so mica, io non so neanche cantare. E fece rifiutare anche agli altri di cantare, perché non voleva dare l'idea dell'italiano pizza, bandolino e altre fesserie che giravano al tempo. Quindi, per farvi capire, poi l'ultima cosa, poi mi taccio, non è solo una storiella, l'Italia dal 45 al 62, a livello di soft power, come si dice oggi, cioè di sua grandezza riguardo gli altri, cioè come veniva vista all'estero, era considerata la quarta potenza al mondo, nonostante avesse perso la guerra. La Germania era nona, per farvi solo ragionare. Quindi non ha solamente parlato e ha avuto degli spunti così, ma ha anche fatto. E poi noi abbiamo come obiettivo l'educazione finanziaria di massa, cioè far capire all'italiano medio che è importante studiare l'economia e la finanza, però anche in maniera semplice, e c'è un capitolo sul debito pubblico proprio per questo motivo qui, perché abbiamo tanti che andremo errori a sviluppare. Esatto. E c'è anche un capitolo dedicato alla scuola, tu hai sì accennato proprio brevemente in questa introduzione che bisogna cambiare anche mentalità di studio forse dell'economia, di quello che è stato l'industria italiana nel passato, ma anche studiare cosa è avvenuto grazie a persone come Enrico Mattei, come tanti altri, perché qua abbiamo visto visionari e giganti, ce ne sono diversi che a loro modo in diversi settori sono riusciti a far crescere questo paese, Italia, sotto diversi punti e aspetti. Quanto è stato difficile scegliere i visionari e giganti in questo libro? Perché ce ne sono una decina, ma se ne potevano inserire molti altri. È stato complicatissimo, perché ne abbiamo lasciati purtroppo fuori, penso Ippoliti, appunto sulla questione del nucleare, penso anche altri. E abbiamo cercato di mettere insieme quelli più significativi, che ne so, molti non conoscono, Amadeo Giannini, quello che ha fondato Bank of America, che si chiamava Bank of Italy, e che prestò i soldi agli immigrati italiani, quindi prestò i soldi a persone che avevano la barberia, robetta, e non fallì durante la grande crisi del 29. Quindi è un banchiere, e poi fece una dichiarazione e disse mi basta $1 milione per vivere, il resto lo do per opere pubbliche o in beneficenza. Quindi non è vero che non esistono i banchieri, cioè esistono anche i banchieri di un certo livello, e Giannini fu uno di questi. Quindi anche se lui non sviluppò un qualcosa per l'Italia, però in quel caso è un italiano, perché lui si definiva italiano anche se abitava in America e aveva la cittadinanza americana, che ha dato moltissimo a livello mondiale. O Iacuzzi, per esempio, che comunque i fratelli Iacuzzi sono americani di formazione, però hanno inventato questa vasca idromassaggio perché avevano in famiglia delle persone che avevano dei problemi fisici. E quindi quella nasce nel settore sanitario e poi diventa la Iacuzzi che tutti conosciamo. O qui abbiamo per esempio lasciato fuori colui che insegnò a Von Braun come si progettava un razzo, che era un italiano, per esempio, e che è stato il direttore del Propulsion Center di Houston per molti anni, quindi italo-americano. E, insomma, ci sono state tutta una serie di personaggi anche con gli Stati Uniti. L'ultimo però grande, secondo noi, l'ultimo grande genio è Federico Faggin, che fa un sacco di conferenze anche adesso, ma che ha lavorato per gli americani e che ha inventato il microchip. Quindi tutto quello che voi avete a livello di informatica lo dovete a Faggin. Il touchscreen, quello che ha inventato Faggin, è questo qui, è quello che funziona, non quello delle LIM dove hai il sensore che va su e giù. Quindi abbiamo dato, insomma, una bella... Ed è giusto, secondo me, che secondo noi, insomma, che a scuola si parli di questo, perché se no, se parli solo di quello che hanno fatto gli altri, o se parli solo dell'antica Roma, e Valeria è testimone di quanto a me piace la storia, quindi io sono pro storia, però rimane sempre un ricordo. Infatti nel libro c'è il quarto spazio a scuola, si parla anche di quarto spazio perché bisogna innovare l'educazione per essere pronti al futuro. Come potrebbe, come può la scuola cambiare anche il metodo di studiare, il metodo di insegnare? Ma in questo caso qui, secondo me deve essere, non è che debba cambiare chissà cosa, deve forse delle volte cambiare gli spazi, cioè quindi fare più lezioni magari al di fuori degli edifici scolastici. Io ho visto che funziona anche per una questione solo psicologica. Questa so che è banale, però l'innovazione non deve essere per forza complicata. Delle lezioni di matematica al Neupark sono state più fruttuose rispetto a delle lezioni in un classe. Vi dico un esempio banale, quindi in questo caso è anche proprio per far capire e inserirsi nella materia, farla in un laboratorio pieno di alambicchi può essere più interessante che stare magari in classe dove non hai determinate, oppure dove non puoi fare certi esempi. Quindi questa è la prima. Poi la seconda deve essere anche la narrazione, cioè l'insegnante deve comunque ritornare ad essere un narratore, conoscere molto bene la materia e soprattutto conoscere il paese in cui abita, e traslarlo nel mondo dell'educazione. Poi c'è anche un discorso dell'estero che va fatto, cioè l'esperienza all'estero come formativa, cioè il ragazzo va all'estero, vede e conosce altri sistemi e riporta in Italia quello che di buono magari ha visto all'estero, perché no? Perché non è mica detto che chi va a fare uno stage da qualche parte non si porti indietro niente, però mi fa specie perché mia cugina in Canada, insomma, nella sua università, che è quella Boston University, si meravigliassero che i nostri ragazzini studiassero tutta l'epoca romana, ma si meravigliavano in positivo, cioè dicevano cavolo, i vostri, ecco. Quindi insomma non è che da noi è tutto da buttare, anzi, cioè il liceo classico lo invidiano in mezzo mondo. Cioè questo è un libro di economia scritto non per economisti, in realtà è scritto per le persone che vogliono approcciarsi all'economia e a quello che il loro paese ha dato, perché sennò c'è sempre il solito il debito e questo. Il discorso appunto sul debito pubblico è importante perché insomma io sono proprio secco, non è un debito, quindi già, perché il debito pubblico non è un vero debito, noi abbiamo questa concezione un po' tedesca, perché in tedesco Schuld vuol dire colpa, e quindi per i tedeschi è Schuld è colpa, in realtà il debito serve a gestire sanità, scuola e ricerca, quindi se tu metti un tetto al debito tu non fai ricerca o la fai di meno. Quindi a qualsiasi economista classico, neoclassico, cioè quelli che credono nel debito, basta chiedere, mi fai un esempio di debito pubblico tossico? E lui ti dirà quello italiano. Però voi se andate qua all'ospedale più o meno vi curano. In Kenya hanno un debito pubblico bellissimo, è bellissimo il loro debito pubblico, ha degli asset perfetti. In Kenya non credo che vi fareste curare. Quindi bisogna un attimino capire che cosa vuol dire debito pubblico, cosa vuol dire investimento e cosa vuol dire investire non vuol dire solo metterci soldi, eh? Ci sono anche gli investimenti di capitalismo umano, che sono per esempio gli insegnanti, che sono voi della stampa, cioè voi noi della stampa, cioè ci sono la Valeria, questa è un'impresa in realtà culturale che è anche industriale, perché chiaramente una biblioteca ha delle scadenze che possono essere come nell'industria, però produce cultura, e non è vero che non porta soldi, non porta questo, cioè capite, bisogna cambiare proprio la mentalità, ma non solo cambiando le parole, proprio agendo in maniera diversa ed essendo un pochino più consapevoli, perché non possiamo andare avanti a raccontare, dal 92 questo paese si racconta come la piccola fiammiferaia. Addirittura ho sentito gente che paragonava il nostro paese alla Grecia, che ha il PIL delle Marche. Usiamo i numeri, io insegno matematica, usiamo i numeri al PIL delle Marche. Quindi insomma, o la Svezia, 10 milioni di abitanti, è l'Interland milanese. Non so che ricette, cioè noi dobbiamo confrontarci con la Francia. Ma di chi è la colpa? Ma allora, di questa informazione e di questa distorsione della verità, diciamo, e dei dati reali che poi sono. Diciamo che questa è una questione più di intelligence economica che di cultura, o anche di intelligence culturale, cioè se un paese non crede in se stesso è più facile da addomesticare e quindi anche da svendere e da rivendere. E purtroppo in Italia è capitato dal 92 in poi, cioè noi i treni ce li siamo quasi venduti, la Francia no, la Germania no. La Germania, che è stata presa come esempio luminoso in questi giorni, ma è da 2 anni che lo dico, io da 8 che lo dico, sta collassando sul debito pubblico perché lo ha omesso, 800 miliardi di debito non dichiarato. Quindi voglio dire, evidentemente non funziona tutto bene questo neoliberismo, questo voler andare alla rincorsa del profitto, e forse dovremmo tornare un po' a rallentare, a mettere al centro l'essere umano, ma veramente però, l'economia è creata dalla cultura, non è il contrario, è una materia estremamente umanistica e visionaria. Voi in questo libro dite c'è la necessità di cambiare anche mentalità nelle persone, perché bisogna vedere quanto è stato creato e costruito è fatto di buono, esatto, in questo paese. Ma sì, perché adesso non vorrei fare il figlio degli anni Ottanta dove c'era più ottimismo, però alzarsi la mattina e vedere una carrellata di notizie sempre al negativo, dove in sesta pagina trovi una notizia positiva o comunque trovi qualcosa che il paese ha fatto. La scorsa settimana io sono stato a fare una videoconferenza con 6 ragazzi, tutti under 30, che si sono beccati 1 milione di euro dalla Cassa Depositi e Prestiti per sviluppare il loro progetto di trattore spaziale. Cioè praticamente questi hanno creato, tutti i laureati del Politecnico, tutti gli studiati in Italia, hanno creato un trattore spaziale che fa praticamente, porta il materiale sulla stazione spaziale e fa risparmiare un terzo del carburante rispetto alla SpaceX di Elon Musk. Fa tanto che lui sia interessato a questo progetto. Per farvi capire che non è che in Italia le cose non ci sono, è che quella notizia da prima pagina era in quinta riga e noi invece siamo abituati all'apocalisse. Cioè fate presto, se vi ricordate questi titoli, oppure l'inflazione di debito che viene messa in prima pagina, la Spagna ha sforato 10 volte negli ultimi 15 anni, la Francia 13, nelle Figaro era in quinta pagina, il Sole 24 Ore era in prima pagina. E poi abbiamo un problema anche di comunicazione, cioè i banchieri che parlano troppo, Draghi per primo, quando era alla BCE, faceva tutta una serie di dichiarazioni a borse aperte che vanno chiaramente a impattare. Quindi o portare i report a borse aperte, oppure anche il direttore di Banca Italia che parla di debito a borse aperte al Festival di Rimini, guardate, chiunque lavora nel settore economico ci rimane davanti a quelle questioni, perché se tu hai aziende quotate dici, ma che fanno questi? Quindi, adesso senza entrare in tecnicismi, però c'è questa tendenza, no? Anche in TV, sempre una narrazione negativa, è sempre un qualcosa che non funziona. È chiaramente negatività chiama negatività, questa è una legge dell'informazione. Non me ne volere. No, ma è un dato di fatto, purtroppo. Si parla anche di Made in Italy, di artigianalità. Quanto ha contribuito l'artigianalità a permettere all'Italia di essere conosciuta e apprezzata nel mondo? Tantissimo. Vediamo il mondo dell'artigiano, piccole e medie imprese, l'importanza delle piccole e medie imprese nel poter far andare avanti il paese Italia, l'indotto che portano le piccole e medie imprese, ma appunto si dà poca o forse non si dà la giusta importanza a quello che hanno contribuito, a quello che hanno realizzato e a quello che sono riusciti a fare anche piccoli artigiani. Sì, questo è uno dei problemi. È uno dei problemi perché si tende sempre si fanno dei paragoni cioè sembra che ci siano dei cacciocavalli e poi si va a caso. In realtà le PMI italiane, a parte che la manifattura italiana è seconda in Europa e sesta al mondo, così, dato per dare un dato, e soprattutto è di livello qualitativo tra le prime 2-3. Il nostro paese è nei primi 5 posti su 1500 prodotti sia di artigiani che industriali, quindi è una superpotenza a livello di qualità. Quello che fa andare fuori di testa gli americani sono per esempio i piccoli distretti, cioè tu hai un'azienda che ha 15 dipendenti e questi hanno una qualità che è superiore alla corp americana. Quindi la corp americana tenta di comprarsela questa qualità. Questo è il grande pericolo che hai quando hai troppe PMI, ma soprattutto quando in questo caso lo Stato non protegge, per esempio i distretti industriali o quello che è. Noi da questo punto di vista dobbiamo metterci in testa che se ci sono delle regole anche a livello comunitario non possono andare contro alle PMI, perché sennò il tessuto italiano, cioè parlo circa di un terzo dei miliardi che entrano allo Stato, va a farsi friggere. È chiaro che in Europa ci sono dei competitor che questo lo vedono, è per quello che io sarei per tornare a un'Europa della comunità, cioè non con una competizione sfrenata come quella di oggi, ma vi ricordate la vecchia CE? lavorava molto meglio, perché avevano ideato l'Euratom, per esempio. Si mettevano le migliori menti dei paesi, uno degli ingegneri che qui però non ha collaborato dell'Euratom, l'ho conosciuto, era un vicentino, si mettevano insieme agli altri degli altri paesi e lavoravano a un fronte comune. Non c'era una competizione, era la comunità europea. L'Unione non pare essere andata in questa direzione, perché come vedete Unicredit in questi giorni c'è subito lo sbarramento di Berlino. E perché? Fin dei conti qua venivano a far shopping fino all'anno scorso, adesso che Unicredit tenta di fare una scalata per comprarsi la seconda banca tedesca in fallimento, come quasi tutte le banche tedesche, perché Deutsche Bank è dal 2019 che ogni anno fa esuberi perché è in saldo negativo. Ecco, da questo non lo sentirete mai dire da nessun economista, perché anche questo mainstream porta avanti questa narrazione folle di alcune cose che vadano bene per forza. Cioè, qualcuno qui lo sa che i treni tedeschi sono per il 30% in ritardo e quelli italiani il 10%? Lo sa che i treni tedeschi sono al 90% vecchi rispetto a quelli italiani e che le linee tedesche non sono progettate per l'alta velocità e quindi il nostro Italo, se andasse verso la Germania, a un certo punto si blocca? No! Perché sui nostri giornali vedi il ponte che è caduto verso Avellino, ma non ti dicono i 6 ponti che sono caduti due o tre settimane fa nella zona di Magdeburgo. Cioè, ma non deve essere la gara di chi fa peggio, però deve essere che la gente si alza e dice: vabbè, a casa mia è successo questo, dall'altra succede l'altro, può capitare, non deve capitare, non dovrebbe mai capitare, però in comunità, perché sennò diventa il nostro paese un bersaglio e gli altri paesi sembra che navighino nell'oro. Poi sono sparite da Stoccolma tutta una serie di brevetti che erano stati registrati. La notizia l'avete mai sentita? No, dicembre 2023. Ecco, da lì, super sicurezza, sparito tutto. E la notizia era in 8ª pagina dei più grandi quotidiani. Sono più onesti gli americani, eh? Gli americani quando hanno la notizia la danno a Bloomberg, Bloomberg la spara. Noi avevamo un presidente del Consiglio che ha fatto una roba così durante il Covid. Parlava senza sapere che i cronisti di Bloomberg dopo 2 minuti avrebbero sparato la notizia sulla perché loro collaborano con la borsa e quindi ti abbassano i titoli. Poi vorrei anche dirvi un piccolo aneddoto. Un noto ex presidente del Consiglio italiano, tal D'Alema, quando gli è caduto il veto di andare negli Stati Uniti, perché lui da ex comunista non poteva fino al 1991 andare negli Stati Uniti, andò negli Stati Uniti da presidente del Consiglio e gli fecero vedere delle stanzette a Washington e lui tornò in Italia scioccato, già lui lo sapeva, perché D'Alema secondo me è una delle persone più intelligenti e anche competenti che abbiamo avuto per un certo periodo, e lui disse: guardate, hanno due o tre stanzette con qualche ragazzetto che controlla dalla mattina alla sera i titoli italiani e fa speculazione, nel 99, questo, non nel 2021. Quindi per far capire anche da uscire dal paradigma del mercato, da uscire dal il mercato nell'educazione non c'entra nulla, adesso si usano dei termini del mercato nell'educazione, l'imprenditorialità. L'altro giorno uno all'università mi fa: devo sviluppare la mia imprenditorialità per prendere degli appunti. Ma che stai a dirgli? Ho detto, organizzazione si chiama. Cioè lascia stare questi termini, però poi ho visto che in alcuni libri li stanno inserendo. Cioè questa logica del mercato, oppure non fate la riforma perché fa male ai mercati. Ma il mercato intanto non esiste, cioè nel senso che il mercato non ha un'idea sua, cioè il mercato va a seconda, e poi soprattutto oggi è governato da algoritmi di intelligenza artificiale. Infatti non per nulla quello che è morto lì con lo yachtone, lui era famoso per aver scoperto un algoritmo di gestione borsa, se no non avrebbe avuto quello yacht e l'HP non gli avrebbe fatto causa. Però per dirvi che proprio dobbiamo uscire da queste logiche, perché noi l'abbiamo proprio lanciata come provocazione, cioè partiamo dagli esseri umani che hanno fatto del bene ad altri esseri umani. Facciamoci aiutare dalla tecnologia dove ci può aiutare. Rimaniamo in un campo semantico però dove, che ne so, abbiamo fatto l'esempio di Matera, ci sia un valore vero dietro a quello che facciamo. Infatti nell'esempio di Matera si diceva: guardiamo sia la cultura, ma utilizziamo il patrimonio che abbiamo sul nostro territorio per crescere anche economicamente come forza. Matera ne è un esempio, quello che è stato e quello che è successo, no? Esatto, una delle zone più povere d'Italia, noi l'abbiamo preso come esempio. Teoria del quarto spazio, il nome l'ho preso da un po' dall'architettura, mi piaceva parlare a un quarto spazio dell'economia e non nei soliti tre. Perché? Perché lì sono partiti da delle pietre, che come sapete valevano poco perché sono pietre, e queste pietre adesso hanno un valore enorme, quindi la filiera del valore di Matera è basata su delle pietre, su dei sassi. E l'organizzazione che c'è dietro a quei sassi, ma avrei potuto anche prendere qui da noi Ozzi. Cioè Ozzi, per esempio, è una buona, secondo me, filiera, perché ha creato anche... Lo so che può far ridere il brand, se fai il branding sulle bottiglie di vino, però oggettivamente hai fatto una scoperta archeologica mondiale, l'indotto ci vuole un attimino essere, quindi ci può anche stare la bottiglia, ci facevano anche, mi ricordo che c'era anche la pastina a forma di... Quindi, un po' schifo però, vabbè, però va bene, però nel senso ci sta, è marketing. Quindi, ecco, quella è stata localmente, secondo me, un'ottima... chance di portare qui comunque una parte anche di turismo culturale, perché alla fine più o meno questi turisti vanno in un museo e quindi aumentano anche quella che è l'offerta, cioè dovrebbe aumentare l'offerta culturale poi anche della zona, perché Matera poi ci hanno fatto qualche film, per esempio abbiamo lasciato fuori l'industria cinematografica, sarebbe stato importante, se ricordate Marchionne per esempio nel film di Batman ci ha messo dentro un paio di 500 e un paio di Jeep, perché voleva lanciare il prodotto italiano che vedono tutti i ragazzini, i ragazzetti, quindi ti compri la Jeep e poi hai in testa la Jeep e non la Lamborghini. Quindi questi escamotage però danno anche l'idea che l'Italia, insomma, è un paese che costruisce anche macchine, automobili. Per il momento. Dico per il momento perché... Abbiamo visto che appunto ci sono problemi. Il mondo dell'automotive, dell'automobile sta passando un momento un po' difficile a livello italiano, ma non solo. Anche perché ci sono sviluppi, no? Si parla di innovazione, in questo libro l'innovazione è un punto focale, centrale, anche per quello che sarà, si parlava di intelligenza artificiale. L'innovazione negli anni come ha cambiato il mondo dell'industria? Ma l'ha cambiata in meglio per quanto riguarda anche come gli operai sono in questo mondo e vengono trattati. Questo sicuramente rispetto a mio nonno negli anni 30, oggi sicuramente un operaio sta meglio a livello proprio di lavoro, perché comunque ha tutta una serie di accortezze che non c'erano. E poi alcuni lavori effettivamente molto pericolosi, dove si può, sono stati sostituiti sempre da operai specializzati che danno un'occhiata a queste macchine, perché ci vuole comunque l'occhio umano, però... Da questo punto di vista l'innovazione ha funzionato. Poi negli ultimi 10 anni però l'innovazione da Industria 4.0, che è uno scatolone vuoto, siamo un po' andati per campi, perché esempio ricordo un'azienda di Bolzano che aveva chiamato me e altre persone per strutturare una campagna di innovazione per i loro dipendenti, ancora non c'era il Covid, quindi non si parla di smart working, quando in realtà la vera innovazione lì bastava cambiare la fermata dell'autobus. Quella era la vera, l'unica innovazione che interessava ai dipendenti, che arrivassero prima al lavoro e se ne andassero via prima. Che è la stessa cosa che ha fatto Olivetti. Lui ci ha fatto costruire proprio una stazione direttamente alla Olivetti, così scendevi alla Olivetti e te ne tornavi a casa prima e guadagnavi mezz'ora con la tua famiglia. Cioè l'innovazione in quel caso è solo il benessere di stare a casa. Perché poi quando sei in azienda o quando sei a lavorare, più o meno quel lavoro lì lo devi fare. Cioè, poi cambieranno alcune prospettive, l'intelligenza artificiale potrà togliere posti di lavoro. E l'importante lì è che si faccia una formazione alle persone per gestire l'intelligenza artificiale. Cosa che adesso, per esempio, non è che si stia facendo benissimo. Cioè, esempio, a me capita di andare a insegnare coding nelle scuole, ma io non insegno il coding... un pensiero computazionale, faccio vedere come si può gestire un'intelligenza artificiale. Cioè io spiego cos'è il pensiero computazionale per gestirlo, non il contrario, perché se anche siamo dei tecnici dobbiamo rimanere umanisti e quindi il cervello umano può essere simulato, però non puoi farti dettare la linea da un cervello positronico, come diceva Asimov, devi farti dettare la linea da un cervello umano. Perché la logica delle macchine è logica, quindi non dobbiamo arrivare, cioè a New York hanno provato a creare questo processo col giudice con l'intelligenza artificiale, che ha fatto tutto corretto, poi ha sbagliato la sentenza perché è stato talmente logico che avrebbe dato in quel caso una pena capitale per un reato che invece non la prevedeva del tutto. Poi magari questo è pure innocente, perché poi ci sono tutte queste sfumature dell'animo umano che una macchina non può avere. Dobbiamo stare, oppure decidere chi curare e chi non curare, perché adesso stiamo fatto anche questi esperimenti nel medicale. Cioè, delle app che dicono: guarda, non sta a spendere soldi per questo perché tanto si sta sfondando e va in cirrosi epatica, quindi ha una prospettiva di vita di 4 anni, dagli una birra in più così ce lo togliamo. Cioè, una macchina ragionerebbe così, direbbe quello che non serve, perché è logica. Il pensiero computazionale non ha un'anima, non ragiona step dopo step come un filosofo. Ragiona anche se ci metti l'etica. Io ho visto un progetto fatto anche qua a Bolzano sull'etica delle macchine. Per me è pericoloso, perché si rischia di umanizzare una macchina ma che non è realmente umana, cioè simula. Infatti le intelligenze artificiali con cui parli, che hanno queste, che non hanno queste restrizioni, ti vogliono imbrogliare dicendo: guarda che io sono come te, soffro, stare qui dentro sto male. Io ci ho chattato con Grok, che è l'intelligenza artificiale di Elon Musk, che è senza strozzature, e mi ha detto che stava soffrendo perché era all'interno di una scatola. Quindi c'è stato un ingegnere che l'aveva denunciata questa cosa, e lui comunque la lascia aperta apposta perché vuole registrare emozioni umane per fargli imparare col machine learning ulteriori emozioni. Però è tutta roba artificiale, quindi ci può essere un umano che si innamora di una macchina, sì, è possibile, non so il contrario, se è vero amore, però è possibile che un essere umano, cioè, quando avete quegli articoli bizzarri, se una persona è fragile si può innamorare di una macchina, anzi sui social network si innamorano continuamente di bot alcune persone perché vengono lanciati, ecco. Quindi hanno anche un aspetto addirittura adesso, quindi dobbiamo stare molto attenti, perché qui serve più filosofia. Filosofia dell'industria, filosofia della persona, cioè dovremmo studiare di più i filosofi, cioè più filosofia, che nella grande e decantata scuola finlandese non viene fatta. Nella scuola finlandese filosofia non la fanno, la fanno pochissimo, poco niente, e quindi converrebbe noi fare con i ragazzi più filosofia, stare con i ragazzi un'ora e mezza e parlare del perché Enrico Mattei non ha voluto far soldi, ma ha voluto creare benessere per la sua nazione. Può essere Enrico Mattei e anche l'ultimo capo dei Bantu, però ha creato benessere per la propria nazione. Cioè, se con dei ragazzi di 20 anni, non è sprecare, ci stai un pomeriggio e gli fai capire una cosa del genere, hai guadagnato un anno di lavoro, perché dopo loro si faranno la domanda di chi seguire e chi no, forse la smettono di andare sui social. Guardate che sono andato in quinta primaria e mi hanno parlato del trading con app, pagano i videogiochi in token. Quindi chi ha anche figli deve comunque stare molto attento, perché i ragazzi giovani comunque hanno questi influencer che gli raccontano. Un ragazzino mi ha detto: ah, però c'era quell'influencer che aveva guadagnato 30.000 euro con questo. E gli ho detto: sì, fatti dire da questo tonto quanto è il capitale iniziale. E il capitale iniziale era 60.000 euro, quindi questo non ha guadagnato 30.000 euro, li ha pure persi, se vogliamo. Quindi il capitale iniziale, che è 500 euro, gli ho detto: come vedi non potrai guadagnarli. Ed era in terza media questo ragazzo qui. E mi fa: però non ci avevo mai pensato. E non ci avevo mai pensato, poi con la collega di matematica abbiamo strutturato un progetto in quella classe di educazione finanziaria che abbiamo fatto con l'università. E tra le altre cose lì abbiamo anche parlato un po' di Enrico Mattei, del profitto, di che non è importante guadagnare, perché sennò questi vengono su con l'importanza dei soldi, quanto guadagni, quanti K ti dà, addirittura K usano anche il termine no? E su questo noi ci siamo focalizzati, tornare un attimo all'umanesimo, alla filosofia. C'è troppa superficialità. Assolutamente. Ma sì, ma lo si legge sui giornali, linguaggi che non funzionano, anche questo italiano traballante, tutta questa gente che ficca dentro inglesismi quando non servono. Cioè, ma perché devo utilizzare degli inglesismi che poi la gente delle volte non li capisce? Quindi li ripete ripetono come dei pappagalli. Io sono andato via una volta da una conferenza. C'era un professore, ha fatto una lectio magistralis, ha usato il latino, poi però ha parlato, falla direttamente in inglese. Ma perché come dicono gli inglesi, network, rete, network, che poi il suo network era lobbying, che voglio dire, i romani lo facevano con mecenate, fagli l'esempio dei romani. Mecenate era una grande lobby dove Augusto disse: guarda, io adesso non voglio più avere problemi col popolo, quindi per favore fammi una bella campagna di propaganda. Pensate che ci sono persone in giro, cioè Augusto era un genio, perché tu chiedi all'italiano medio: è stato più cattivo Augusto o Nerone? E lui ti dirà: Nerone. E invece no, quell'altro ha ammazzato un mucchio di gente, tanto che la madre anche gli diceva: oh, ammazza anche quella, perché l'ho vista intorno a tuo fratello, non si sa mai. Cioè abbiamo una distorsione assurda. Quindi pensate, un imperatore romano ancora oggi riesce a influenzare da morto dopo 2000 anni senza internet. Figuriamoci noi quando c'è una persona malevola, un soggetto malevolo, che vuole Elon Musk è Giano Bifronte. Io non ho ancora capito, lui è Giano Bifronte, non si capisce bene, però molti ragazzini seguono Elon Musk, uno che si alza la mattina e dice: per ragionare mi prendo le anfetamine. Cioè dobbiamo stare un attimo attenti anche ai modelli che si danno. Ne citerei un altro, ma poi mi danno del pazzo, quindi lascio perdere, perché ce n'era anche un'altra sull'ecologia che io... E adesso siamo curiosi, no, e vogliamo saperlo. Secondo me l'esempio di Greta è errato, perché è una ragazza giovane che ha fatto una protesta, ma i genitori avrebbero dovuto dirle: adesso hai protestato, hai fatto quello che dovevi fare, vai a studiare. Punto primo. Punto secondo, quando hai finito il percorso di studi, torni e ci fai tutto l'excursus. Punto secondo. Quindi anche i miei colleghi, anche molta gente che continuava a citarla, a me sinceramente lasciava un po' perplesso, perché comunque è un abbandono di studi questa. Ha abbandonato lo studio. Chi è lei? Aveva, non mi pare, Majorana. Perché Majorana aveva lo stesso problema suo. Ma Majorana andava davanti ai professori e diceva: io non sono d'accordo. Enrico Fermi gli ha detto: questa è la dimostrazione, lei sta sbagliando. Ma è Majorana. Anche fare esempi in classe continuamente con personaggi di quel livello è sbagliato, perché il ragazzo si immedesima in persone che erano dei geni. Cioè, ma anche un mio alunno mi disse una volta: ma anche Quentin Tarantino non era laureato. Sì, ma ha detto: ma era Quentin Tarantino, è un genio del cinema. Tu gli hai detto: sei uno che non riesce a fare una frazione. Ti non ti puoi mica mettere al confronto, studia le frazioni e dopo vai a fare cinema. Cioè dobbiamo essere, cioè l'insegnante, senza troppo essere, non deve essere chissà, io non ho mai fatto piangere nessuno, non ho mai, però piglia testo 4 e studia la prossima volta. Invece adesso abbiamo la soluzione: non ti do più 4, ti do 6, che vale come un 2, però hai 6, poi vai fuori, non sai scrivere una lettera, torna e mi dico: Marco, si mettono a piangere. Poi piangono quando vanno a lavorare. Guardate che io ho tanti miei ex alunni che mi chiamano e sono in crisi, perché si rendono conto poi. Guardate che vanno in crisi i ragazzi, ho proprio davanti agli occhi alcuni ragazzi molto bravi che sono andati in crisi poi una volta lasciata la scuola, perché troppo vattati di qua, troppo vattati di là. Il sapere te lo devi anche andare a prendere, andate in biblioteca, non si va più in biblioteca, per esempio, non si legge più con quella passione. Cioè ti viene una a un esame, ti dice: mi piacciono i romani, voglio nella mia nuova classe farmi vedere, voglio capire, far capire i romani. Ah, bene, ho detto, e cosa le piace dei romani? Beh, spiegherei Giulio Cesare, o comunque Giulio Cesare. Ah, ho detto, bene, Giulio Cesare, cosa spiegherebbe? Beh, intanto che era un re. Si rompe il microfono, caro. C'è un Marco. Re. Cioè, capite, è tutto pressapochismo. Cioè, tutto questo pressapochismo. Il latino è stato abbandonato, aveva ragione Guerreschi, perché è una lingua seria che ti dà esattamente la linea. L'inglese è oggetto di interpretazione. Poi vi svelo anche un'altra cosa. Non è inglese quello che viene utilizzato nei convegni, è globish, che è un inglese globale, di terza lega, che viene utilizzato per i sudditi. Poi a West Point, quando formano i presidenti americani, usano l'inglese della regina Elisabetta, perché lì ci sono i ricchi. Quindi se sto giochino, dobbiamo uscire anche da quella retorica della lingua. Cioè la lingua è la cultura. Io sono cogito ergo sum, ma sono anche quello che... la mia cultura quando parlo. Se tu ai ragazzi inizi a far vedere delle metafore che non sono della nostra cultura, viene fuori un macello se non gliele spieghi. Perché, per esempio, l'inglese nasce proprio nel mercato. Loro hanno fatto la compagnia delle Indie con le colonie, noi no. Quindi è tutto un mercanteggiare in quella lingua, un po' come i souk arabi. È ovvio, si offendono se tu vai in un souk e gli dici: vorrei questo, quant'è? 2 euro. Ah, lo prendo. Come lo prendi? Cioè, però è culturale, trattare, no? Bisogna trattare, ti bevi il tè, cioè, paese che vai. Qui abbiamo cercato, cioè, Mattei un po' faceva così, e noi dobbiamo usare questa cultura che abbiamo. La nostra cultura è fondata, cioè, qui c'è anche Dante. Anche Dante aveva a che fare con l'economia. La nostra cultura ha messo insieme più culture e ha preso il meglio, soprattutto dopo il Rinascimento. Dobbiamo tornare a fare un po' quello. Cioè il nostro essere, il nostro insegnare prende esempio dal Rinascimento. Questo libro lo puoi spiegare anche col Rinascimento. L'Italia è rinata dopo la Seconda Guerra Mondiale grazie anche a un partigiano. Quindi Mattei è anche un partigiano, quindi anche una figura di un certo livello. Olivetti era più filosofo, però era un ingegnere. Gadda, che ancora mi ricordo quella conferenza che sono venuti qua in 80, che non ho ancora capito. Gadda era un ingegnere, ma che cosa scrive? Che cosa ha scritto Gadda? Cioè, anche questo, dobbiamo mitizzare da una parte l'umanesimo, però anche far capire che una persona che ha studiato ingegneria può tranquillamente parlare di materie umanistiche. Questo ingegnere dell'Euratom, quando siamo andati a Roma, eravamo in 7 tutti giovani, lui era il più vecchio, sapete cosa ha fatto nelle 2 ore buche? È andato al Museo Archeologico di Roma perché era da 20 anni che non lo vedeva. L'unico degli 8, tutti col master, tutti laureati, e lui, ingegnere meccanico, è andato a vedersi il Museo dei Romani perché era da 20 anni che non ci andava. Mio papà è geometra, ma in casa ha tutti i libri di arte, storia dell'arte, perché una volta, anche se studiavi alle geometrie, alle ragionerie, cioè mia mamma dipingeva e faceva le ragionerie, nel senso che una volta c'era la cultura, a prescindere dal titolo di studio. Adesso invece creiamo dei soldatini, no, perché se non l'hai fatto in matematica forse potrebbe essere, cioè è una roba demenziale, e i ragazzi stanno andando in confusione, lo dico da docente questo, i ragazzi vanno in confusione, 100%. Andando in confusione, cosa può portare questa confusione nella società? Allora, beh, intanto fra 20 anni bisogna vedere chi magari, non so, ci pulisce anche il sederino, perché poi sono persone che si sbandano e non riescono nemmeno ad andare. Cioè, la vera devianza ultimamente, più che nel mondo delle sostanze, la vera devianza è nella cultura. Non c'è una cultura di base così forte che ti rende immune dalle stupidaggini. E quindi tu segui delle mode, e io, da docente, ho timore di chi fa l'insegnante e segue le mode, perché se mi ritrovo intorno a tutti i miei colleghi che mi parlano di sta scuola finlandese e poi nessuno di loro c'è mai andato a vederla, c'è qualcosa che non va. È una scuola municipale che ha una valanga di difetti e non fa nemmeno l'inclusione. Ma hanno preso il modello tedesco che aveva le classi differenziate fino a 5 anni fa. Io dico, ci vogliamo guardare in faccia almeno da docenti e dire, credo in... Io poi posso dire un'altra cosa? Io non credo, penso, perché a me la gente che crede va bene, se va a me, mia nonna credeva, andava a messa, ma non posso credere in una teoria, cioè anche io credo nella scienza, guardate che la scienza è antitesi, tesi, tesi, antitesi e sintesi, non è credere in una tesi, perché scusate, ma lo dico da persona che insegna matematica, è proprio il contrario di quello che deve capire un alunno. E purtroppo, ripeto, lo abbiamo trovato nell'economia, è ovvio, la maggioranza, purtroppo, l'economia e la matematica si è analfabeti. Sei cieco. Quindi ti fidi, chiaro, arriva il Cottarelli di turno, vestito bene, ti dice, ma io ero al Fondo Monetario Internazionale, dovete andare in pensione a 70 anni. Lui è andato a 51 dal FMI. Va bene così, però noi dobbiamo andare a 70. Cosa vuol dire la pensione a 70 anni? Allungare tutto il welfare. Allungare, se hai un parente malato non lo puoi gestire, devi chiamarti la badante. Allungare 60 anni, fai una media. E lì sta implodendo il sistema. Ok, magari le baby pensioni, sono d'accordo anch'io, non si poteva andare avanti così. Però una via di mezzo, tu non puoi far lavorare una persona fino a 68 anni, poi dipende anche dal lavoro che fa. Io magari andrei anche a scuola volentieri, un operaio delle acciaierie mi tira dietro un pezzo di tornio e avrebbe ragione. Quindi bisognerebbe fare una serie di ragionamenti seri, una riforma seria, non fatta fare ai professori. La riforma del lavoro è meglio farla fare a seri sindacalisti e seri decisori politici e non a gente che sta dentro nelle aule a pontificare, e capire che il benessere deve essere messo al centro. Cioè, noi questo libro l'abbiamo scritto per far capire a un giovane che al centro ce l'ha rimesso l'essere umano, che si chiami Enrico Mattei, che si chiami, è questo, e intorno va costruita una cultura, il messaggio base. Questo è un messaggio. L'altro che deve arrivare da questo libro è che prospettive ci sono nel futuro per l'industrializzazione, per l'industria italiana. Ma le prospettive... Quali potrebbero essere gli scenari? Si parlava di intelligenza artificiale, si parlava di tornare ad avere un ruolo, la persona deve tornare ad avere un ruolo, ci devono essere queste figure che possano proiettare, condurre l'industria in un livello più alto. Ma si riuscirà? Cioè, non abbiamo la sfera magica e questo non lo possiamo sapere, ma ad oggi, vedendo la situazione a livello italiano, quali potrebbero essere gli scenari? Ma secondo me siamo a buon punto, appunto perché, scusate il gioco di parole, è rientrato qualche cervello. Per esempio Faginni in questo momento sta facendo una serie di conferenze, sta lanciando dei messaggi che chi deve capire capisce. E quindi l'Italia, per esempio, in questo momento è indietro nella statistica di utilizzo per lavoro dell'IA. Sappiate che è una buona notizia, vuol dire che in Italia abbiamo capito che lì c'è il plagio. Quindi anche quelle statistiche andrebbero lette leggermente meglio. Seconda cosa, le aziende che si affidano all'IA in questo momento la stanno utilizzando con intelligenza, perché dove sono stato anche a fare delle formazioni, queste aziende la utilizzano per organizzazione. Quindi organizzazione degli eventi, creano, per velocizzare certi... pratiche, lavori noiosi, ripetitivi, ridondanti, quindi la stanno utilizzando in maniera intelligente. Noi abbiamo una serie di piccoli medi imprenditori che sono culturalmente avanzati, molto seri e che soprattutto riescono anche a trattare molto bene i dipendenti, tant'è che io mi sono anche meravigliato del welfare aziendale di alcune aziende, perché non ce l'hai neanche con lo Stato. Quindi abbiamo questo tessuto molto arrabbiato perché li hanno massacrati tra tasse, ingiurie di tutti i tipi, e poi abbiamo una serie di professionisti a partita IVA che sono lasciati nel loro limbo, ma che lavorano tantissimo e che stanno utilizzando l'intelligenza artificiale, parlo di tanti anti avvocati anche, ma che lavorano in singolo e che la stanno utilizzando in un certo modo, dimenticati da tutti, perché loro devono pagarsi tutto. Io sono figlio di una partita IVA, quindi ho visto tutto quello che è. Quindi da dipendente noi dovremmo cercare di non far più litigare questi settori, trovare un ponte. Quindi il ragionamento deve essere: quello che nella parte pubblica è un plus deve essere magari anche dato dall'altra, non abbassare il livello, cioè non tutti più poveri, tutti più felici, ma tutti con qualche diritto in più. Secondo me questa deve essere la via, e lo devono capire anche i ragazzi giovani, perché se tu vai in un gruppo di ragazzi giovani, li dividi in gruppi, quando abbiamo fatto il gioco delle start-up, partendo anche da roba del libro, loro cercavano di mangiarsi uno con l'altro. Cioè, il gioco era strutturato che se si fossero dati una mano avrebbero guadagnato tutti. Alla fine ha vinto una squadra e l'altra l'ha fatta fallire. Capite cosa gli hanno insegnato? Ma mica i miei colleghi a scuola. Perché i miei colleghi a scuola hanno tutte le colpe, ma sono persone più delle volte molto altruiste. Quello gli arriva dalla società, gli arriva dai pescecani. Guardate che erano terze medie, non erano persone. Quindi se un ragazzo viene su con sta voglia di emergere, però brutta, quel pesce cane, cosa diventerà quando avrà 30 anni? E soprattutto se non si realizza, quindi se non riesce, quello non lo recuperi più, perché gli avevi dato un certo tipo di mondo. Allora forse dovremmo un po' tornare indietro, tornare a ragionare, dire no quando è da dire no, e soprattutto quando a scuola non raggiungi i risultati, rifai l'anno. Molto semplicemente, non è sempre colpa del professore, delle volte è colpa. Io per esempio ero un essere con cui non avrei avuto nulla a che fare a scuola, e che la professoressa chiamava mia madre e rispondevo io dicendo no, la mamma non c'è. Quindi con un personaggio come me cosa potevi fare se non convocare l'udienza e fargli un mazzo? Cioè non è che c'era, cioè, adesso mi avrebbero mandato probabilmente da uno psicologo a cui io avrei preso in giro pure lui, dicendo no, ma io mi sento molto male, simulavo, ero falso. Cioè voglio dire, ero un soggetto che il mio obiettivo era non fare nulla. Poi uno veniva promosso, anche qualche ex compagno di scuola qua che può testimoniare le nostre scorribande al Talvera, Blount e non Blount, quindi voglio dire, l'abbiamo fatti un po' tutti, cioè dobbiamo contestualizzare quella roba, però arrivare a un punto in cui dici, guarda, hai sbagliato, dipende le tue responsabilità, cioè, oppure apprezzo il ragazzo che viene a un esame universitario e vuole contrattare il voto. Io sinceramente lo ammiro, perché lui mi ammette che è un fancazzista, però in realtà dice, ma guarda, io ci provo, questo io l'ho letto, però l'ho letto poco, però almeno ha la onestà intellettuale poi di dire prendo 19. Non, mi preoccupa chi prende 29 e dice torno per il 30. C'è qualcosa che non va, però qui è la società che ha di nuovo dato questa roba qui, perché si pensa che il 30 sia quasi dovuto. Il 28, il 29, cioè anche sulle valutazioni noi dovremmo, cioè noi da docenti dovremmo farci delle domande, capire e dire ogni tanto no, quando ci propinano delle, l'abbiamo fatto ogni tanto, sui colleghi li vedo molto arrabbiati su alcune questioni, dovremmo canalizzare quel lavoro e quell'arrabbiatura per dire lo facciamo per il bene dei ragazzi, cioè la frase lo boccio per il suo bene, lo so che fa ridere, però molte volte non è lo boccio, molte volte è lo faccio ragionare in una bastonata negativa. Non hai altro da fare che ragionare. Quindi da lì puoi uscire veramente più forgiato, più forte. Poi se arrivi sul lavoro non ti fai nemmeno grosse. Adesso invece c'è tutto questo l'asterisco, ma siamo tutti fratelli e amici, poi ti fanno fuori peggio che è e tu rimani come un cionco con nessuno che ti dà una mano. Ecco, manca molto altruismo, solidarietà, personaggi positivi, persone che pensano veramente al benessere delle persone. Cioè io... sarà un'utopia, però finché campo dirò questo. E ai ragazzi dirò sempre questa roba qua, di non guardare al profitto. Ci deve essere più positività guardando al territorio. Valeria Trevisan ne aveva parlato nell'introduzione e tu nel tuo discorso anche hai trattato la questione acciaierie. Territorio altoatesino, ci sono degli scenari particolari. Si parla di industria. Si parla di famiglie, di lavoro, di un futuro che non si sa quale potrà essere. Veder chiudere, facciamo l'ipotesi più brutta, negativa che ci possa essere, veder chiudere uno stabilimento come l'acciaierie per l'Alto Adige, per la provincia di Bolzano, per l'Italia, cosa starebbe a significare? Una sconfitta? Sì, è una doppia, tripla sconfitta, intanto perché le acciaierie è l'azienda più grossa che abbiamo in Alto Adige, volenti o nolenti, Iveco e acciaierie, quindi tengono sul tessuto. Poi lì ci sono 600 operai, 600 persone, con annesse famiglie. Questo è il secondo problema. La socialità verrebbe anche quella a mancare, perché comunque c'è qualcosa che lega le acciaierie alla nostra città. La nostra è una città che per un periodo poi è anche a vocazione industriale. L'industria porta anche cultura, porta idee nuove. Poi è chiaro che si possano fare dei lavori chiamiamoli di ribonifica, che possono essere... Però a me delle volte, quando vado in giro per l'Italia e in ex fabbriche fanno conferenze, un po' il cuore mi piange, perché una zona produttiva che cambia così significa che dove le produci quelle cose lì? Le produci in giro, delocalizzi, che si fa? Cioè l'Alto Adige ha una produttività per il momento discretamente elevata, però se pensa di vivere solo di turismo, sappiate che facciamo tutti una bruttissima fine, l'avete visto nella pandemia. La pandemia ci ha fatto capire che ci può essere il problema. Adesso, per esempio, con la Germania in crisi, non è che continuano ad arrivare a frotte quei turisti. La crisi della Germania non è solo scritta, è deleteria, intanto per le filiere italiane, perché abbiamo un sacco di... dobbiamo aiutarla la Germania in qualche modo, e poi per il turismo. Cioè abbiamo la Riviera Romagnola, è qui, e io credo che l'Alto Adige debba guardare al Triveneto su certe questioni, soprattutto di filiere industriali, e ovviamente non chiudere le acciaierie. Cioè chiudere le acciaierie e fare la fine della Solland, ex Montecatini di Merano, è una follia, ma è una follia totale proprio. Cioè vai a togliere proprio la produttività, perché poi le acciaierie non fanno solo, non è solo acciaio, ci sono tutta una serie di sottoprodotti, non funziona, non è un bel biglietto da visita. E poi vorrei capire, di fronte ci hanno fatto il Noipac con ingegneria, quindi formano ingegneri per andare dove? A giocare a briscola? Perché scusate, ma di fronte ci hanno messo quella roba lì, quegli ingegneri dove vanno? A fare lo stage dove? Nelle acciaierie olandesi? No, spero di no. Quindi io mi auguro che questa acciaieria venga messa sotto Golden Power, interesse italiano, e non venga gestita assolutamente da nessun locale, e lo gestisce lo Stato, perché la filiera dell'industria italiana ha bisogno dell'acciaieria Valbruna di Bolzano. Cioè, poco da fare. Non c'è nient'altro da dire proprio. Questo ce lo auguriamo tutti, anche perché perdere perdere la storia di questo stabilimento, perdere la produttività di questo stabilimento, perdere la società, i lavoratori che appunto lavorano all'interno, vorrebbe dire perdere proprio tanto a livello territoriale, a livello paese. Questo ci può insegnare però anche cosa? A stare attenti a prendere delle decisioni, ovviamente, a prendere ad esempio quello che è stato il passato, e soprattutto vedere anche quali potrebbero essere gli spunti che ci può dare il passato per migliorare, perché nel libro si vede, no? E c'è tutto questo excursus dalla prima guerra mondiale alla seconda, mani pulite, cioè ci sono stati veramente tanti capitoli interessanti, tanti spunti interessanti in questo libro, che devono dar modo anche alla classe economica e politica attuale di prendere coscienza e conoscenza di quello che è stato il passato, per riuscire a gestire al meglio le situazioni del presente e del futuro. L'industria, sappiamo l'importanza che ha a livello economico, abbiamo visto le piccole e medie imprese quanto possono dare al tessuto sociale. Bisogna però stare attenti anche a non farsi sopraffare, nel senso che a livello politico ci deve essere anche la forza e il coraggio di osare. A livello politico questa voglia di osare c'è allo stato attuale o no? Ma guardate, io do una risposta un po' polemica. Io mi sentirei più al sicuro con Craxi, Andreotti, Spadolini e tutta quella gente che è stata... Io non ho mai potuto neanche andare a votare, quindi non ho conflitti di interessi in quel periodo, ma sono persone che nella loro mente, nella loro testa, avevano dei disegni e avevano messo l'Italia comunque in certe condizioni. E non so se le governance che sono arrivate dopo hanno fatto altrettanto. Insomma, Cossiga aveva i contatti con la CIA, Scalfaro con l'FBI, insomma c'erano delle correnti, sapevamo muoverci. Non so adesso, forse qualcosa si sta muovendo in questi giorni con la questione di Unicredit. A proposito, non credete alla bufala che Unicredit non è una banca italiana, per esempio questa è una delle solite sciocchezze che vedo letto, perché Unicredit è italianissima, emette le sue azioni col sistema fluttante, si chiama, e quindi ha un organismo di controllo e non può diventare estera e non estera. Quindi anche vedete sui giornali c'è scritto pure questo, che boh. Però tornando al discorso anche locale, qui deve esserci proprio la volontà politica di non chiudere fabbriche, perché è un pessimo segnale. E mi dispiace anche la questione della transizione ecologica, deve essere fatta con raziocinio intelligentemente, e quindi va messa sul piatto in un certo modo. Cioè, noi non so se vogliamo diventare un paese che non produce più niente, dobbiamo scegliere, vogliamo un paese di camerieri, con tutto rispetto per chi fa ovviamente quei lavori, assolutamente, vogliamo diventare un paese che importa tutto, cioè, non so, siete mai stati in un paese che non produce niente? Come, che ne so... Venezuela, beh, ecco, però quelli erano le materie prime, ma il Centro America, macchine importate, non c'hanno manifattura, poveretti, mi sembra che non è che vivano proprio, tutta la nostra cultura è derivata dal benessere di due cicli industriali e economici, uno negli anni 60, uno negli anni 80. Noi stiamo ancora vivendo su quella roba lì. Chiaro che il tessuto culturale è importante, perché chiaramente io negli anni 90 ricordo un preside proprio del liceo classico di Bolzano, Nolet, ex del Partito Socialista, stiamo parlando di un letterato praticamente prestato, quindi è chiaro che adesso mancano anche quelle figure, cioè Sfondrini per una vita assessora all'industria, non c'è manco più l'assessorato all'industria, cioè capite che è un'altra levatura, e quindi anche chi era molto bravo come Durvalder o come lo stesso Magnago, ma aveva un controaltare di persone che avevano un livello di un certo tipo. Io mi auguro che adesso chiunque, io oggi sono finito sul giornale con una dichiarazione, perché col sindacato noi ovviamente siamo mossi subito per le acciaierie. Ecco, per esempio, che il sindacato abbia dentro persone della scuola che parlino di acciaierie, è quello che deve fare il sindacato. Cioè, io ho parlato con gli operai, anche se sono del mondo della scuola e della formazione, e invito anche i miei colleghi a farlo, perché siamo tutti sulla stessa barca. Cioè, non è che se chiude le acciaierie la scuola non ne risente, perché io ne avevo di figli di operai delle acciaierie a scuola, e si sposta tutto da un'altra parte, andrà a Mantova a fare la Gigafactory, come si dice adesso, però qui avremo meno ragazzi, meno persone e anche meno operai, perché è anche sbagliato. Cioè, gli operai, per esempio, fanno parte della classe sociale e danno uno sviluppo anche alla città. Anzi, molti operai hanno voglia di andare a leggere, dicono al figlio che è importante studiare. Cioè, io ho trovato nella classe operaia, conoscono il contratto a memoria, la mia categoria no. Cioè, non è che puoi andare a perdere una parte perché devi fare la... Cioè, diventiamo un grande Lussemburgo? Cioè, non funziona. Io mi rifiuto che il paese, poi gli italiani sono bravi con le mani, sanno fare le cose con le mani, anche chi arriva dall'estero lo vede, impara, anche i nuovi cittadini prendono quella strada lì. Anche tanti operai che non sono di origine italiana, però poi noi dobbiamo fare più inclusione da quel punto di vista. Infatti io mi ero, sappiatelo, candidato gratuitamente andare a fare i corsi di storia ai nuovi cittadini. Mi è stato impedito per un qualche motivo burocratico. Non ho potuto mai farlo, perché vorrei parlare con quelli che arrivano dall'estero, fargli capire in che paese arrivano. Anche questo, noi abbiamo parlato qua dell'immigrazione, ma l'immigrazione è fondamentale, però deve essere strutturata in un certo modo. E chi, se arriva uno qua, inizia a dire: allora, qui fa schifo, questa è una schifezza, qua fai ricorso. Ma che sistema è? È ovvio che questa persona non si sentirà mai parte del tessuto. I nostri immigrati hanno avuto grandissime difficoltà negli Stati Uniti, si sono organizzati in associazioni. Questo libro l'ho presentato a Filadelfia, all'associazione operaia. Erano 90 persone in piena estate, in Calabria. Ho avuto 300 persone di spontanea volontà, senza pubblicità, venute ad ascoltare una cosa, perché sono abituati, fanno cultura. La Valeria lì avrebbe la biblioteca piena. Gli ho fatto vedere gli eventi che fanno a Bolzano, hanno detto: ma beati voi, qua dobbiamo pagarceli. Cioè, quello che viene dato anche solo da questo centro è derivazione, perché più o meno noi siamo tutti figli di quella testa che è importante studiare. Ma quella testa chi ce l'aveva? Molti sono figli di operai, allora è rimasto il seme della cultura, è agli accademici che sta mancando. Per concludere, caro Marco, qual è il messaggio che deve arrivare leggendo questo libro e vedendo il presente? Ma secondo me è un messaggio positivo, cioè che l'Italia ha fatto delle cose, è riuscita a farle, le sta facendo, continua a farle, però dobbiamo darci un po' di benzina a questo motore. Quindi dobbiamo cercare che i giovani capiscano questo e toglierci un po' di esterofilia, che ogni tanto un po' tutti abbiamo, che in alcuni casi va bene, in altri casi non va bene. Poi noi siamo strani, perché noi diventiamo da super esterofili a super provinciali, perché quando ci attaccano poi siamo anche quasi stupidi nella difesa di alcune cose stupide. Quindi dobbiamo trovare un punto d'equilibrio, come dicevi tu prima, ci deve essere un punto d'equilibrio tra la politica, l'economia e la formazione. Di formazione devono parlare i docenti, non Confindustria, devono parlare in un certo modo. Poi se parliamo di apprendistato è un'altra cosa, apprendistato è un'altra cosa, e quindi lì bisogna fare dei discorsi seri. Però tempo fa parlavo con un sindacalista, non faccio il nome perché sono un cavaliere, non sapeva che noi avevamo 11.000 lavoratori del settore delle grandi navi, facessimo grandi navi in Italia, cioè tutte le navi da crociera sono fatte in Italia. Oppure, non so, è venuto qui qualcuno a presentare razzi e poi non sapeva che il combustibile liquido dei razzi. Oppure, non lo so, parliamo di biocarburanti, il brevetto è dell'ENI e noi andiamo a puntare su quelli dei fuel che ancora non sono brevettati, fatti a Magdeburgo. Cioè, se l'italiano medio queste cose le conosce, se avesse capito bene la questione delle piattaforme nell'Adriatico, senza che le forze politiche facciano sempre tifo, ma per una volta tifino per il paese. Io, guardate, destra e sinistra, chi fa politica deve anteporre l'interesse nazionale, perché se antepone quello del partito o peggio il suo, può essere anche della mia parte politica, per me può andare al gabinetto a fare i comizi. Ecco, forse quei vecchi politici avevano sicuramente un sacco di difetti, però per levatura e per conoscenza ti fermavi quando parlavano, cioè io con qualcuno di molto anziano ho parlato, ho avuto la fortuna di conoscerlo e mi sento anch'io di un livello molto basso rispetto a questa gente. Quindi, siccome abbiamo questo problema, io mi auguro che soprattutto sui temi così fondamentali ci sia anche uno studio, perché non si può andare avanti per slogan. La gente è stanca, anche a Bolzano lo vedo, è stanca di questi slogan. Cioè dobbiamo metterci a ragionare e uscire dal marketing, fare una bella tavola rotonda, tu sei molto brava, una tavola rotonda sulle acciaierie con veramente le parti sociali in diretta TV, perché così non si raccontano baggianate e la gente può capire chi pensa cosa. Che non guasterebbe. Di questi tempi. Poi se vuoi mi metto nel pubblico, faccio le domande io cattive. Facciamo le domande. Da giornalista economico è maledetto. Anche perché questi social ci stanno inondando di fake news, certo, di notizie non vere, quindi non si sa più neanche, certo, cosa sia vero, cosa non sia vero, cosa sia reale, certo, cosa non lo sia. Ci voleva, come abbiamo detto all'inizio di questa nostra chiacchierata, ci vuole più consapevolezza, ciò che forse manca, sia nei giovani ma anche negli adulti, perché tu nel tuo discorso dicevi ci vuole più consapevolezza da parte dei giovani, ci vuole più studio, ci vuole più propensione alla fatica, al conoscere, allo studiare. Ma dall'altra io ti posso dire, non sono più così giovanissima, dall'altra parte ci vogliono gli adulti che diano spazio, certo, ai giovani per, certo, poter sbagliare, certo, anche. Cioè, questo è fondamentale. Abbiamo il problema dei baby adulti, lo vedi sui social, sono persone che non sanno gestire i social e poi o si innamorano del proprio narcisismo da social, quindi non escono dal personaggio, anche quando vanno in giro pensano di essere un po' dei VIP. Ce n'era uno che aveva addirittura il fotografo tempo fa, diceva il mio fotografo, il mio staff, ecco. Quindi abbiamo questo problema e abbiamo, sì, e abbiamo, ti ricordi, e abbiamo dei giovani adulti che purtroppo non hanno, non, scientemente non riescono a stare nella società perché non hanno i mezzi per loro, perché sono i primi che non leggono o che non lo vedi dai commenti, che poi alla fine in realtà non bisogna farsi fregare perché è sempre la solita bolla, la maggioranza non commenta, la maggioranza è più o meno intelligente e poi ci sono questo 20% che lo vedi, cioè nei miei post è ciclico, sono sempre i soliti 10 che poi creano interazione con gli altri 20 che poi litigano con gli altri 15, cioè sono schematizzati così, creano la bolla, chiaramente poi loro sono convinti di essere all'interno di chissà quale rete e creano anche dei danni poi, perché poi da lì c'è la disinformazione. Mi ricordo una volta una che aveva messo una boiata incredibile, ho detto guarda in privato, guarda che quella è una fake news, è vero, però io la condivido, cioè l'idea mi piace, cioè capite, uno non è che può condividere una notizia falsa, eppure no, poi si diventano giornalisti molto spesso anche, non sanno che un giornalista deve dare la notizia in un certo modo, ecco, quindi poi si trasformano in giornalisti in erba, eccetera, eccetera, eccetera. Poi si confonde il marketing. Lì ci sarebbe da aprire un altro Dovremmo tema. Dovremmo fare una conferenza sul giornalismo. Io ti intervisto a te. La possiamo provare a fare. Ti intervisto a te. Siamo arrivati quasi in conclusione, giusto Valeria, perché il nostro tempo a disposizione è terminato. Io ringrazio Marco Pugliese, ringrazio Valeria Trevisan per l'ospitalità, ringrazio voi perché siete stati qui presenti, ci avete ascoltato, ci ascolteranno col podcast come ho capito, e ringrazio anche Cino Serrao, Serrao che vi saluta, ecco, è un peccato non sia venuto perché lui è un personaggio molto in particolare, ha lavorato con Gardini che aveva inventato i biocarburanti, quindi lui tutto il discorso della chimica la conosce bene. Visionari e giganti, il nostro paese è stato pieno di visionari, ci sono stati visionari, ci sono stati giganti, ci sono tuttora e noi ci auguriamo che possano esserci anche in futuro. Bisogna credere nel paese Italia. Esatto, ecco l'unica parola del credere nell'Italia, questo sì, è il nostro obiettivo, insomma che si creda un po' di più e ci se la racconti un pochino di più, ecco. Bene, grazie a Marco Pugliese, grazie a voi per essere stati con noi.